versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. Eccoci qui, cari ascoltatori, un saluto in questo martedì 24 di giugno alle 16.36, 24 secondi in diretta di Studio Radio 24 Milano da Oscar Giannino. Grazie per ascoltarci. Vi chiedo subito anche oggi di telefonarci, è un prosieguo della puntata di ieri, quella sull'immunità, per dirci immunità sì o no al nuovo Senato. Tentiamo oggi, mi hanno chiesto di riequilibrare il punto di vista illustrato ieri molti ascoltatori, perché ieri in effetti io ho spiegato le ragioni per le quali ho cambiato idea negli anni e credo che finché la politica non è rilegittimata moralmente deve stare molto attento ad evitare i scudi privilegio. Però molti garantisti, visto l'ospite di ieri avevamo un ospite del Movimento 5 Stelle che ci ha spiegato come qualmente anche lui sia totalmente contrario all'idea non solo dell'immunità per il Senato, ma crede e ha proposto di abolirla anche per la Camera, però oggi tentiamo di equilibrare con un altro punto di vista. Però prima di presentarvi l'ospite e di entrare nel merito, e ricordo il numero di telefono per le vostre opinioni, 800 24 00 24, la volete voi l'immunità al nuovo Senato non elettivo, sì, no, la volete alla Camera, ne fareste a meno anche alla Camera, chiamateci, ditecelo, come mandate il messaggio 349 238 6666 per darci il vostro punto di vista. Due brevissime riflessioni da parte mia. La prima è su quello che inevitabilmente avverrà diciamo un'ora dopo la fine della nostra trasmissione. Un piccolo appello a voi tutti, forse inutile: facciamo che se la nazionale di calcio vince non è Vittorio Veneto, e facciamo che se perde non è Caporetto. Cioè, riusciamo a stare un po' equilibrati nelle reazioni? Già a me non è piaciuta molto, ma questa è un'opinione mia personale, la dichiarazione di Prandelli che dice giochiamo per la patria. La patria per me, insomma, è una cosa un po' diversa dal calcio. Però io rispetto tutti i punti di vista, tentiamo in ogni caso di non credere che stiamo perdendo o vincendo una guerra. Purtroppo le guerre che vinciamo o perdiamo sono quelle economiche che milioni di italiani ogni giorno da anni subiscono. Ecco, però detto questo, poi è una cosa fondamentale la partita, rispetto. Prima cosa, seconda osservazione, questa mi esce un po'... devo misurare le parole, perché magari poi a Radio 24 al suo direttore, a tutti, non piace questo tipo di critica. Però io vi dirò una cosa, io e misuro le parole... non riesco a capacitarmi di un paese nel quale scopriamo gli esodati a centinaia di migliaia dopo che emaniamo i decreti, come avvenne per la riforma Fornero, ne abbiamo parlato un mucchio di volte. Mentre invece, quando ci sono decreti che toccano gli alti dirigenti dello Stato, il Quirinale, prima di emanarlo, mette tutto a posto preventivamente, come è avvenuto in questi giorni per i magistrati, per i militari, per gli avvocati dello Stato. Pagina 2 e 3 del Corriere della Sera di oggi. Il decreto non vede la luce, non è emanato, fino a che non si risolvono preventivamente tutti i tentativi di toccare queste categorie. E per militari e magistrati non stiamo parlando di un prepensionamento, ma del diritto difeso, proclamato e confermato di rimanere in carica ben oltre i limiti che invece riguardano tutti noi comuni mortali fino a 75 anni. Ecco, per me non è un paese giusto quello in cui gli esodati a centinaia di migliaia li scopriamo dopo i decreti, e quelli in cui invece, quando ci sono i decreti che riguardano i vertici dello Stato, risolvono prima il problema al Quirinale. Lo so, è una critica al capo dello Stato, si può fare? Io credo che sia una questione equitativa. Io non tollero uno Stato che è sempre in grado di pensare ai suoi prima e a tutti i cittadini pensa dopo, scoprendo le conseguenze. Magari mi sbaglio, magari facciamo una trasmissione domani, se siete d'accordo. Questa però è la mia opinione. Ora torniamo alla faccenda dell'immunità, e quindi vi presento l'ospite di oggi. Immunità, ricordiamolo, prevista dai costituenti, modificata poi alla fine della Prima Repubblica come presidio di checks and balances, di equilibri e garanzie, visto che i due poteri sono separati, il legislativo e quello giudiziario. che però di fronte poi negli anni della Prima Repubblica all'impunità con cui si rifiutavano allora le autorizzazioni a procedere, quindi non si indagava nemmeno, viene travolto ai tempi delle indagini, e che adesso nella Seconda Repubblica era stato molto modificato con una richiesta di autorizzazione a procedere su cui quindi si pronunciavano i colleghi parlamentari solo per l'autorizzazione richiesta dai magistrati per le intercettazioni e naturalmente per l'arresto. Lo estendiamo al Senato oppure no? Ecco l'aspetto di oggi che è con noi, che ringrazio di essere qui ai nostri microfoni oggi pomeriggio, Francesco Paolo Sisto, che è Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Buon pomeriggio, Presidente. Buon pomeriggio, ho ascoltato con molta attenzione l'arringa offensiva, più che difensiva, non come offesa, ma come posso dire, capacità di dire delle cose che mi sembra metodologicamente vadano prese in seria considerazione, e la ringrazio per aver introdotto quella che è una delle mie, diciamo così, fissazioni, cioè il discorso sul metodo più che sul merito. Certo. Perché in un paese, se il metodo è corretto, il merito è quasi irrilevante, appartiene poi alle variabili della politica. Ma il metodo deve essere corretto. La Costituzione non è un'opinione, è un richiamo chiaro a tutti e senza appartenenze al rispetto di una ossatura irrinunciabile perché il Paese possa essere ritenuto democratico, al di là di questa affermazione che può apparire anche un po' retorica, me ne rendo conto, ma quando si parla di Costituzione secondo me non si può parlare di retorica, ma soltanto di rispetto dei principi fondamentali. Allora, è un paese che in questo momento credo riproponga drammaticamente il rapporto fra politica e Costituzione, fra numeri e Costituzione. Ora poi magari se lei vuole spiegherò più analiticamente il perché vedo questa crisi del rispetto della Costituzione nel momento in cui si cerca addirittura di riformarla. Sì, diciamo che viviamo in una fase con questo governo, visti i numeri che ha preso, e quindi su quello non si discute, in cui sembra improvvisamente che tutte le remore che sono esistite per anni nel dibattito politico italiano al fatto che chi aveva la maggioranza netta dei voti poteva cambiare tutto, adesso sembrano scomparse. Comunque, detto tutto questo, questa è un'osservazione mia. Cominciamo dal punto del però guardi, poiché diciamo è veramente un piacere discorrere con lei, le cito un esempio chiaro di questa crisi del rapporto tra politica e Costituzione, di come si cerchi di far passare come diritto della politica quello che sostanzialmente è il diritto del sovrano di violare le leggi. Io mi riferisco all'articolo 67 della Costituzione, il caso Mineo, no, in cui si è bellamente fatto fuori un parlamentare solo perché non la pensa diversamente, la pensa diversamente da te, e l'articolo 67 invece è noto che dà ai parlamentari libertà di mandato, cioè non sono vincolati. Non sono vincolati al mandato. Ora quindi questa violazione macroscopica, violenta dell'articolo 67 è un bonsai per comprendere come si crede che sulla scorta di un consenso che molte volte, lo dico con molta pacatezza, ma non è un consenso su quello che si fa, ma è un consenso su quello che si dice, sulla scorta di questo si possa addirittura avere la disinvoltura, non voglio dire la sfrontatezza, di strappare una norma della Costituzione e far passare questo strappo come addirittura una forma di efficientismo parlamentare. Io questo lo voglio dire subito, perché poi l'articolo 68, che è quello che viene immediatamente dopo il 67, questa banalità me la farete passare, ma nella Costituzione l'articolo successivo non è mai casualmente posto rispetto al precedente. Esattamente quello che riguarda appunto le tutele del parlamentare. Esatto. Ecco, quindi voglio dire, sembra come se parlare di immunità dopo il caso Mineo ha un link, una joint venture di carattere, come posso dire, culturale, che non è da E no, perché c'è una logica delle tutele del parlamentare. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta a toccare il punto immunità no, abbiamo visto ieri, immunità sì, perché tentiamo di vedere oggi. Rapidissimamente intanto, ascoltatori, cominciamo con Massimo che ci chiama da Milano. Prego Massimo. Massimo, ci senti? Caduta la linea mi sa di Massimo da Milano. Sì, e allora andiamo su Giovanni da Napoli. Prego Giovanni. Buongiorno a lei, dottor Giannino, buongiorno al suo... Giannino e basta, dica pure. Allora, io sono del parere che è finito il tempo in cui l'immunità parlamentare era una difesa del diritto del parlamentare, del senatore al regime politico. Questa, come voi ben sapete, fu un dispositivo voluto dai padri costituenti sulla scorta anche dell'esperienza che si era maturata durante il fascismo, periodo in cui le battaglie politiche si facevano anche con l'esilio e con la persecuzione dei parlamentari stessi, insomma. Sì. Fu necessario questo dispositivo, ma oggi i tempi sono radicalmente cambiati, questo pericolo non c'è più, ma è emerso in maniera violenta la necessità di una moralizzazione della politica, e pertanto credo che per i soli reati relativi a reati comuni come la corruzione, la concussione e reati di questo genere, questo istituto debba essere abolito, anche per dare un segno dei tempi. Certissimo. Anche per dare un segno di moralità. Giovanni, hai espresso l'altra cosa, dici tempi sono diversi, quindi aboliamo, dici tu. Nei messaggi di oggi, devo dire la verità, rispetto a ieri, dove c'era una nettissima prevalenza di abolizionisti per il no alle immunità, anche per la Camera, oggi sono più equilibrati, perché le tutele del parlamentare devono essere compatibili con il programma presentato in campagna elettorale. Questo ce l'ha il nostro ascoltatore con Renzi, non è stato eletto, altrimenti si deve rimettere. Questo però è un'altra questione rispetto all'immunità. Troppi intrecci tra politica e magistratura, ci dice Tina, sì all'immunità, la legge agisca al fine di preservare i mandati. Allora, sentiamo la nostra ospite, Francesco Paolo Sisto, Presidente della Commissione Affari Costituzionali. Lei che pensa? È molto, diciamo, apparentemente semplice quello che sto per dire. La Costituzione ha un architrave solido e coerente, che mi sembra un po' come è accaduto per il codice Rocco. Io sono un penalista, quindi sono appassionato proprio della capacità di tenuta delle norme rispetto al passaggio dei tempi, il diritto vivente che è sostanzialmente la giurisprudenza che poi si forma sulle norme, come il codice Rocco, che sembra strano, è ispirato dalla Costituzione ma è nato prima della Costituzione, e la Costituzione non ha un'appartenenza, cioè non si può dire che l'immunità, a mio avviso, e ovviamente ho molto apprezzato l'intervento del nostro ascoltatore, che l'immunità parlamentare è nata per rispondere ad un'esigenza che si era presentata durante il fascismo. Io penso che l'immunità parlamentare nasce da un'esigenza semplice, è il combinato disposto degli articoli 68 e 101, cioè la separazione o la separatezza dei poteri fra giudiziario e legislativo, che è sancita non solo dall'immunità dei membri del Parlamento, ma dall'articolo 101, che vuole che i giudici siano soggetti soltanto alla legge. Bene, se sono soggetti soltanto alla legge, è evidente che la legge non può che essere formata da soggetti, non può essere studiata, non può essere votata da soggetti che siano liberi dal gioco della magistratura per quanto concerne almeno particolari diritti, quali quelli che erano, secondo me, saggiamente scritti nell'articolo 68 prima di quella scellerata riforma, quella sì, diciamo scaturita nel 93 da esigenze, diciamo, di manipolitismo acuta. Cioè lì è chiaro che quella modifica è stata veramente figlia dei tempi, un pessimo figlio dei tempi, perché è evidente che qual è il rischio che poi si corre oggi. Io sento parlare di DASPO, sento parlare di provvedimenti che possono interferire sulla formazione delle leggi, che la magistratura, quella parte, piccola parte della magistratura che non lavora nel silenzio dei propri provvedimenti, il giudice deve avere il volto del suo provvedimento. Io non dimentico che questo è un paese che ha consacrato con corone di ferro tanti magistrati che sono diventati politici sulla pelle delle proprie inchieste. Questo non va bene, non è di un paese civile, non è di un paese che vede invece nettamente divisi questi poteri. Non può essere il massmedialismo giudiziario a fare politica. Allora la Costituzione era chiara: da un lato le leggi, da un lato la giustizia. Oggi accade il contrario. È la giustizia che intende condizionare pesante, la giustizia nel senso peggiore del termine, non quella rispettosa dei principi che a mio avviso il 98% dei magistrati persegue, ma quella parte della magistratura che cerca, e qualche volta anche la NM entra a piedi uniti nell'autonomia del Parlamento, malamente per la verità, anche se adesso devo dare atto che la nuova leadership dell'ANM ha mutato un certo atteggiamento addirittura arrogante nei confronti del Parlamento, ecco, c'è la necessità di tenerli nettamente distinti. Quindi la Costituzione aveva una sua logica: togliere una rotellina di quella, diciamo così, di quel meccanismo sapiente disegnato dai padri costituenti ha significato, snaturando l'articolo 68, giungere a questo precipitato giustizialista che fa sì che non si possano scrivere le leggi se non tenendo conto delle inchieste giudiziarie. Ma detto questo, vengo al tema della immunità. La riforma disegnata dal governo Renzi è che, attenzione, non può essere vista al di fuori del sistema di quello che fa il governo Renzi, cioè non è che noi possiamo dire le riforme sono diverse dalla politica, perché per esempio sul decreto pubblica amministrazione... Ah no, però aspetti un secondo, rimango al tema, si addensano nubi che in qualche maniera consentiranno di comprendere quello che sto per dire. Se il Senato resta Senato, cioè noi non stiamo eliminando il Senato in questa riforma, noi stiamo eliminando il bicameralismo perfetto, esatto. Cioè il Senato rimane soltanto con determinate prerogative e caratteristiche, sì. Leggi costituzionali, leggi elettorali, trattati dell'Unione Europea, leggi referendarie, elezione del Presidente della Repubblica. E bene. Con un diverso criterio di composizione, diciamo, di secondo subito, livello. Ci arrivo subito. Rimane il Senato, rimane la Camera, non c'è nessun motivo costituzionale di eliminare l'immunità, perché il Senato resta la Camera, l'asciugamento o la restrizione delle competenze del Senato non può ovviamente avere nessuna influenza sul regime dei parlamentari, immuni alla Camera, immuni al Senato. Questo sotto il profilo del diritto naturale costituzionale, cioè di una logica proprio semplice, perché sulla Costituzione è scritta in modo semplice. Chiunque volesse in qualche modo utilizzare l'arzigogolo per svuotarne il contenuto sbaglierebbe. Veniamo invece al meccanismo di elezione. Si sostiene anche da parte di Forza Italia, secondo me giustamente, che l'immunità deve essere comunque legata alla elezione diretta dei senatori. Ed è chiaro, qui qualsiasi diversa soluzione di tipo secondario è una soluzione politica e non certamente costituzionale, perché è ovvio che io debba voler eleggere un senatore, non posso passare dall'elezione di un consigliere regionale ad una sorta di laurea ad honorem perché diventi senatore, cioè io elettore debbo poter eleggere. Quindi lei dice ci vuole l'immunità come per la Camera e devono essere anche elettivi in momento sintesi. Però no, sì o no? No, perché altrimenti sì. Aspetti un secondo, sentiamo Giuseppe D'Alessandria, prego Giuseppe. Buongiorno. Dica. Forse devo preoccuparmi un po', perché per la prima volta mi trovo d'accordo con quanto ha detto Calderoli stamattina proprio su Radio 24. Cioè lei è per far entrare in ballo la Corte Costituzionale? Assolutamente sì, una salvaguardia per i parlamentari. Però io penso che se facciamo anche della Corte Costituzionale una roba che deriva il fumus persecuzione sui parlamentari, facciamo un altro pasticcio, a dire la verità. Però è un'opinione mia rispetto alla sua e quella di Calderoli. Onorevole Sisto, chi vincerà secondo lei? Posso completare e dire che anche nell'ipotesi in cui si arrivasse all'elezione cosiddetta di secondo indiretto di secondo grado, anche in quel caso secondo lei l'immunità ci vuole, perché essendo... Ecco, io non voglio sfumarla, tanto però sfumano anche me. Buona partita a tutti, state calmi ragazzi, continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani.